Salvadanaio di Deborah Rosciani. Eccoci qui, buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salvadanaio, buon inizio settimana a tutti gli ascoltatori naturalmente. Oggi parliamo di prodotti di investimento che è possibile sottoscrivere alle poste. Perché ne parliamo? Per tornare su un tema che abbiamo già avuto modo di affrontare nei mesi scorsi, quando la crisi finanziaria è esplosa pesantemente, ha fatto scoprire a molti risparmiatori di aver sottoscritto prodotti di investimento meno sicuri di quanto pensassero, prodotti di natura in certi casi un po' complicata, prodotti per esempio i cui rendimenti erano agganciati a titoli della banca americana fallita Lehman Brothers o addirittura legati alle banche islandesi fallite. A febbraio è finita alla ribalta della cronaca una categoria di polizze vita distribuite tramite le poste italiane che si è scoperto avevano appunto dei rendimenti agganciati a titoli derivanti dai mutui cartolarizzati, proprio quelli che hanno fatto esplodere la crisi negli Stati Uniti, i famigerati CDO. Una vicenda che ha riguardato, anzi che riguarda 70.000 risparmiatori italiani a cui le poste hanno proposto una trasformazione del prodotto di risparmio per garantire la restituzione integrale del capitale investito. Però è stata una vicenda che ha anche avuto un'evoluzione recentissima, perché ha aperto la strada alla firma di un accordo con 17 associazioni dei consumatori per aprire la via della conciliazione nel settore vita. E allora di questo parliamo questa mattina, facendo anche un punto della situazione su queste polizze alla cui conversione hanno aderito appunto gran parte dei risparmiatori coinvolti. Allora, questa conciliazione che si apre, chi riguarderà e soprattutto che strada apre anche questo accordo? Il tema che affrontiamo stamattina con Claudio Raimondi, responsabile marketing di Poste Vite, con Fabrizio Premuti, segretario nazionale di Adiconsum e referente per tutte le problematiche legate al settore assicurativo di questa grande associazione dei consumatori, che è una delle 17 firmatarie dell'accordo di venerdì scorso. Naturalmente microfoni aperti anche a voi, che potete telefonarci e prenotare i vostri interventi già da ora. 800 24 00 24 è il vostro numero verde, ci potete come sempre anche scrivere al 349 238 6666. Un'occhiata alla borsa, che questa mattina è di umore piuttosto variabile. Allora, abbiamo avuto venerdì una giornata molto buona per i mercati finanziari internazionali, grazie anche al dato sull'occupazione americana, che è stato pesantissimo, perché la disoccupazione statunitense in aprile si è collocata all'8,9% e siamo al massimo livello ancora confermato dal 1983. Però in aprile le statistiche hanno documentato che i posti di lavoro persi sono stati inferiori alle attese, e su questa prospettiva tutta l'Europa era andata molto bene. Gli indici hanno avuto rialzi molto forti, Piazza Affari ha chiuso con un rialzo di 3,5 punti sull'S&P MIB, per cui gli operatori oggi non si sono fatti mancare l'occasione di portare a casa un po' di incassi, prese di profitto, si chiamano così. Parigi meno 1,54, Francoforte perde un punto, Londra perde lo 0,9%, Milano stamattina, mentre tutta l'Europa aveva aperto in calo, addirittura aveva riaperto in positivo, quindi cercava di consolidare e rafforzare i guadagni di venerdì scorso, mentre adesso ha cambiato direzione e perde più delle altre. S&P MIB meno 1,70 in questo momento, MIPTEL meno 1,60%. Della seduta di Piazza Affari, per la verità, si è ridotto sensibilmente il plotone dei titoli con il segno più. Sono rimasti l'Ottomatica più 2,59, Snameret Gas più 2,39, il Banco Popolare, che continua incurante ad andare avanti, anche oggi guadagna l'1,81% a 7 euro, Telecom più 1,60, il gruppo ha smentito l'indiscrezione di stampa che era apparsa in questi giorni, secondo cui sarebbe pronta ad una fusione con Telefonica, cioè la compagnia spagnola di telecomunicazioni, che è l'azionista di riferimento di Telco, la holding che a sua volta controlla Telecom, ma c'è stata una smentita ufficiale da parte della società e il titolo sta andando benino stamattina a Piazza Affari. Chi invece va particolarmente male adesso è UbiBanca, meno 5,66. Il mercato è stato inizialmente freddo rispetto ai dati della trimestrale che sono stati comunicati sabato scorso, adesso invece evidentemente li sta leggendo un po' meglio, non so cosa sia successo, il titolo sta scendendo più di tutti gli altri. Perde più di 5 punti Bulgari, ne perde 5 anche STM, che ha avuto un giudizio negativo questa mattina da parte degli analisti di UBS. Fiat perde 4 punti, chissà se questa settimana sarà cruciale per capire come si potrà evolvere la partita tedesca con Opel. CIR si ferma stamattina, visto che questo titolo, dopo i dati della trimestrale di 2 settimane fa, ha guadagnato qualcosa come il 40%, adesso -3,84%. Tra gli altri ribassi particolarmente vistosi segnaliamo quello di Impregilo, -3,57%, quello di Finmeccanica -3%, -3% anche per Pirelli e Mediobanca. Rapporto euro dollaro 1,3598, il petrolio flirta con i $58 al barile. Noi lasciamo la borsa, andiamo al tema di questa mattina e partiamo con questo accordo innovativo, è stato definito così, che è stato siglato venerdì fra Poste Vita e le associazioni dei consumatori. Sentiamo con quale obiettivo. La conciliazione sbarca nel campo delle polizze vita. Per la prima volta, infatti, una compagnia assicurativa italiana ha introdotto la possibilità di ricorrere alla procedura negoziale, a ulteriore tutela del sottoscrittore di polizze. È questo, infatti, ciò che prevede l'intesa siglata nei giorni scorsi tra Poste Vita e le associazioni dei consumatori, relativa alle polizze Index Linked, programma dinamico. Si tratta nel dettaglio di quei prodotti sottoscritti da migliaia di clienti di Poste Vita tra il 2001 e il 2002 e legati ai cosiddetti CDO, titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione, che, complice la crisi finanziaria, avevano visto bruciare circa il 70% del proprio valore. Le Poste erano già scese in campo nei mesi scorsi per tutelare gli interessi dei circa 70.000 risparmiatori coinvolti. Come? Accollandosi parte del rischio di investimento e proponendo ai risparmiatori di recuperare il 105% del capitale versato in cambio del passaggio a una nuova polizza garantita da Poste Vita e dell'estensione di circa 3 anni dei termini di scadenza della polizza precedente. In seguito alla recente intesa, dunque, chi non dovesse essere soddisfatto della proposta formulata da Poste Vita potrà ricorrere alla conciliazione. Presso la sede centrale di Poste Italiane verrà istituita una commissione di conciliazione formata da un rappresentante dell'azienda e uno delle associazioni dei consumatori, scelto dal cliente, che si occuperà gratuitamente di analizzare i casi. I risparmiatori insoddisfatti non dovrebbero tuttavia essere molti. La soluzione di Poste Vita è stata infatti accettata dalla quasi totalità dei sottoscrittori, con un'adesione di oltre il 92%. E allora abbiamo tagliato, non abbiamo capito per quale motivo la scheda, ma era praticamente terminata. Il tema è capire allora questo tavolo conciliativo che si è aperto venerdì scorso a che cosa ci servirà. Speriamo che non dovrà essere utilizzato per il futuro, ma insomma la crisi finanziaria ci ha insegnato che nessuna sorpresa può essere più assolutamente scongiurata. Buongiorno a Fabrizio Premuti, segretario nazionale di Adiconsum, l'esperto dell'associazione dei consumatori per il settore assicurativo. Premuti, bentornato a Salvadanaio. Grazie, buongiorno a voi. E buongiorno anche, e grazie per essere tornato a Salvadanaio, anche a Claudio Raimondi, responsabile marketing di Poste Vita. Eccoci qua. Grazie, buongiorno. Grazie, dottor Raimondi. Allora, io volevo cominciare con Fabrizio Premuti per capire intanto qual è nel dettaglio la natura innovativa di questo accordo, perché in passato ci sono stati molti tavoli di conciliazione aperti dalle associazioni dei consumatori con il settore bancario, ne abbiamo parlato molte volte, ma anche con il settore assicurativo. Qual è la portata di questo accordo siglato, dicevamo, tra Poste Vita e 17 associazioni dei consumatori? Premuti. Soprattutto per quello che riguarda poi l'oggetto dell'accordo, stiamo parlando di prodotti vita, quindi stiamo parlando di contratti che vincolano in qualche maniera l'azienda e il consumatore che li sottoscrive ad un rapporto che va avanti anche a volte per decine di anni. Hai appena ricordato del problema delle conciliazioni già esistenti, ma le conciliazioni già esistenti insistevano su delle questioni che erano nell'immediatezza, nel momento. Ricordo la conciliazione RC Auto, si parlava di un sinistro stradale e finiva rispetto a quel tipo di problema relativamente alla responsabilità o alla quantificazione di un danno. Qui stiamo parlando invece dell'evoluzione di un contratto che lega due soggetti per un lungo periodo e che nel momento in cui li lega non ha una certezza di soluzione, tanto vero che ne parliamo dopo che grazie alla crisi dei mutui cartolarizzati questi prodotti avevano perso il 70% del loro valore. È vero anche questo, che non tutte le imprese reagiscono nello stesso modo. Poste Vita in questo caso si è dimostrata particolarmente sensibile, perché entrare, e qui lo capisco io, entrare in un discorso che è quello finanziario, quindi dell'evoluzione finanziaria di un prodotto, non è un problema molto semplice, e non è altrettanto semplice ipotizzare che possa essere conciliato. Mm-hmm. La grandezza dell'accordo è proprio quella di poter mettere sul tavolo due persone che per interesse, l'uno del consumatore e l'altro dell'impresa, ragionino proprio sull'evoluzione finanziaria, su quelli che sono le prospettive, ma anche su quelle che erano le ipotesi nel momento della sottoscrizione. C'è da dire che tutte le compagnie di assicurazione che negli ultimi mesi hanno scoperto, è venuto a galla il fatto che avessero venduto prodotti di investimento, anche polizze vita agganciati in qualche caso a titoli Lehman Brothers o comunque a prodotti cartolarizzati, nella gran parte dei casi hanno deciso in casa propria di risolvere la questione con la propria clientela con le modalità del tutto diverse. Secondo lei avete provato però, caso per caso, premuti anche ad attivare tavoli di conciliazione con le compagnie di assicurazione? Guardi, allora lì il settore assicurativo ha reagito in una maniera che noi definiamo abbastanza positiva, nel senso che l'80% del settore ha comunque dato delle risposte. Queste risposte non dico che siano state concertate con noi, ma siamo stati sicuramente sempre informati di quelle che erano le evoluzioni. È evidente che il merito a Poste Vita è proprio quello di aver accettato di andare oltre, anche di ragionare su un tavolo di conciliazione per quelle che possano essere le divergenze, cosa che non è stata né ipotizzata né accettata da alcun'altra compagnia di assicurazione. Diciamo e ci auguriamo che questo sia un battistrada, cioè che nel futuro anche le altre imprese di assicurazione possano pervenire a un accordo di questa natura e anche con loro si possa arrivare alla conciliazione su prodotti evoluti, che sono quelli appunto che noi oggi definiamo vita, ma poi del concetto vero e proprio della garanzia vita in questi prodotti c'è molto poco, perché sono prodotti finanziari puri e quindi come tali vanno trattati. Claudio Raimondi, responsabile marketing di Poste Vita. Tra l'altro il sistema delle Poste Italiane conosceva già la conciliazione, perché questa era già attiva per i prodotti postali dal 2002, dal 2006 per il settore BancoPosta, per cui voi siete ormai esperti in termini di collaborazione con le associazioni dei consumatori. Non so se questo sia particolarmente un vanto, però insomma è una buona strada. Dottor Raimondi, sì. Secondo noi sicuramente sì. Anche perché quando si dichiarano alcuni valori, no? Spesso infatti alcune polemiche sono perché sono soltanto scritti, no? Quindi li troviamo letti sui siti o sulle dichiarazioni dei giornali. Quando noi invece facciamo delle affermazioni che sono relative alla priorità degli interessi dei consumatori, non è soltanto sulla carta, poi abbiamo bisogno di contenuti concreti attraverso cui realizzarlo. Quando è successo il tema della crisi finanziaria internazionale che ha colto tutto il mondo a metà del guado, noi siamo intervenuti subito, lo abbiamo dichiarato ai clienti, abbiamo fatto con i metodi e i mezzi che noi conosciamo, sicuramente in termini di prodotto, cioè siamo intervenuti e attraverso quell'operazione che è stata descritta in premessa abbiamo effettuato questa operazione per permettere ai clienti di recuperare le intere somme versate. Successivamente, diciamo anche contemporaneamente, perché poi come abbiamo fatto quella comunicazione con le associazioni dei consumatori, tutte o quasi tutte, è stato immediatamente aperto un tavolo di confronto con loro, che ha portato innanzitutto a migliorare l'offerta che noi abbiamo fatto, la prima offerta che noi abbiamo fatto, per cui siamo già intervenuti migliorando e adattando a tutti i clienti in cui ne ricorressero le possibilità, queste migliorie che abbiamo apportato, e poi immediatamente rendendoci disponibili con questo tavolo di conciliazione ad analizzare anche i singoli casi specifici. Queste sono cose concrete che realizzano i famosi ideali, no? e le mission che si descrivono, però è veramente tutta roba concreta, prodotti concreti, restituzione dei soldi in termini concreti con garanzie nostre e in più la disponibilità a ragionare su ogni singolo caso, anche di quelli dei clienti che hanno già aderito alla trasformazione. Questo è un tema che è importante sottolineare. Ecco, infatti, allora io vorrei capire se è il caso qui o se il termine che utilizzerò è improprio, dottor Raimondi. Dobbiamo sgombrare il campo da alcuni equivoci, cioè per il 92% dei sottoscrittori delle vostre polizze programma dinamico, che erano quelle appunto che abbiamo scoperto agganciate ai CDO, quindi il 92% dei sottoscrittori di queste polizze che hanno aderito alla vostra proposta di trasformazione, poi magari ricorderemo anche in che cosa è consistita nel dettaglio questa proposta di trasformazione, che ha in qualche maniera procrastinato le scadenze dei prodotti di investimento e delle polizze. possono questo 92% eventualmente attivarsi con il tavolo della conciliazione se si sono accorti che la proposta di conversione, che comunque li risarcisce quasi praticamente integralmente, ovviamente il valore del risarcimento va depurato dall'inflazione, da quello che è successo in termini economici negli ultimi 8 anni, perché sono polizze che all'incirca sono state sottoscritte tra il 2001 e il 2002, quindi per queste persone la conciliazione potrà servire a qualcosa? In quali casi siete disposti a riaprire il discorso per coloro che hanno già appunto accettato la trasformazione della polizza? Guardi, quando noi siamo intervenuti abbiamo fatto queste operazioni di trasformazioni e che ne sia uscito sui giornali o da qualche fonte, noi non abbiamo subordinato la sottoscrizione alla rinuncia da parte del cliente a qualsiasi iniziativa nei confronti della di sua tutela, qualora si fosse sentito, come il sistema bancario ha fatto spesso e volentieri, esatto, in passato per altri casi. Esatto, sì. Noi non entro in quei meriti, per quanto ci riguarda noi abbiamo proposto qualche cosa che fosse molto efficace, lasciando comunque inalterato per il cliente la possibilità di fare anche altre scelte anche dopo. A maggior ragione se questo cliente ha già la possibilità di aderire a vie legali, a maggior ragione ha anche la possibilità di eventualmente andare a intercettare una soluzione diversa in questi tavoli di conciliazione. Devo dire che innanzitutto una cosa, il 105% è il valore nominale, cioè chi ha investito 10.000 euro ne riceverà indietro 10.500. E quindi in termini di euro è propriamente quello, molto semplice, no? Poi ci sono i discorsi sull'inflazione eccetera, però lasciano... Sì, no, l'ho ricordato perché comunque sono dinamiche che nella sottoscrizione di un prodotto di investimento vanno tenute in considerazione e alcune associazioni dei consumatori hanno puntato particolarmente in dito intorno a questo, quindi lo ricordiamo perché abbiamo avuto il 6 febbraio una puntata piuttosto accesa con un'altra associazione dei consumatori che salutiamo, tra l'altro poi magari la ricordiamo, dottor Raimondi, così. No, ma è corretto, però in modo concreto e pragmatico noi siamo intervenuti sul tema che era la perdita di valore anche nominale, oltre che reale, degli investimenti effettuati, e noi quello lì siamo subito intervenuti, quindi il 105% è netto ed è oltretutto nominale. Dopodiché abbiamo dato anche la possibilità, e quindi questo discorso si apre ovviamente anche a coloro che hanno già aderito. Però mentre dicevo prima delle iniziative che abbiamo già effettuato, e queste iniziative le abbiamo già concordate, seppure non risulta da nessuna parte, sono già state concordate, forse in parte anche spinte, ragionate assieme sicuramente, in modo molto in modo speculativo attorno a un tavolo, siamo intervenuti con le associazioni dei consumatori che poi sono quelle che hanno firmato l'accordo e abbiamo immediatamente migliorato le condizioni per tutti i clienti, e ne erano una buona parte, erano circa un 12% del totale che erano in età più avanzata, che avevano sottoscritto il contratto in età più avanzata, quindi gente che oggi ha un'età superiore ai 79 anni. A queste persone noi abbiamo dato la possibilità di recuperare per intero il capitale senza attendere i 3 anni in più dell'operazione, quindi alla scadenza naturale riceveranno indietro l'intero capitale, sia questo sia per riscatto sia per eventuale decesso, quindi sono interventi sostanziali, anche questi molto pragmatici, molto pieni di contenuto, fatti a vantaggio della clientela. Dopodiché la possibilità è quella di analizzare altri casi specifici che le regole e le norme, per quanto scritte bene, e noi crediamo di averle veramente scritte bene, abbiamo fatto il possibile, però sulle eccezioni siamo disposti assieme a conciliare. E il tavolo, diciamo, è nato proprio con questa finalità. Fabrizio Premuti, ho un minuto di tempo, poi naturalmente con lei ritornerò anche su qualche dettaglio in più rispetto a questa conversione che aveva fatto tanto discutere nei mesi scorsi, insomma, e poi si sono guadagnate anche l'onore della cronaca di Mi Manda Rai 3, oltre che di Salvadanaio e di altre, come dire, casse di risonanza, una proposta di conversione che era scaduta peraltro il 15 marzo, poi allungata a fine aprile se non ricordo male. Secondo lei chi potrebbe aver bisogno di far ricorso a questo tavolo conciliativo che si è avviato venerdì scorso insieme alla vostra collaborazione? Ma sicuramente tutti quelli che non hanno aderito e quindi che non rientrano nel 92%, ma anche rispetto a quel 92%, e qui voglio un po' estremizzarlo e sicuramente Raimondi non smentirà quello che sto dicendo, la conciliazione può essere anche uno strumento di ulteriore comprensione dell'offerta e quindi anche di trasparenza rispetto all'operazione che viene portata avanti. Quindi può servire, rispetto anche a quel 92%, a tutti coloro che hanno sottoscritto ritenendo di aver sottoscritto quasi per forza e vogliono oggi convincersi di un'operazione che hanno già fatto. Quindi può servire veramente a tutti. Poi è evidente che ci saranno delle situazioni particolari, e lì richiamava adesso il problema dell'età, quindi chi è in età avanzata, 79 anni, sicuramente è già stato in qualche maniera attuato un processo per uscire fuori dall'investimento e uscirne fuori senza avere le ossa rotte. Il problema può essere un problema che si riconduce poi anche al collocamento del prodotto nel 2001-2002, possiamo in conciliazione parlare anche di questo. Eccoci di nuovo a Salvadanaio, ancora buongiorno da Deborah Rosciani. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Vi ricordate, noi siamo ritornati su un tema che aveva sollevato un bel po' di polemica soprattutto tra febbraio e marzo, quando era venuto alla luce che un bel pacchetto di polizze che tra il 2001 e il 2002 circa 70.000 risparmiatori italiani avevano sottoscritto presso le Poste Italiane, la cosiddetta serie programma dinamico, erano appunto polizze agganciate a titoli cartolarizzati, a titoli dei mutui cartolarizzati negli Stati Uniti, pertanto avevano perso gran parte del loro valore, più della metà, per cui ad un certo punto le Poste si sono sentite in dovere di proporre una trasformazione di questi prodotti per garantire ai sottoscrittori quantomeno il risarcimento del valore nominale della cifra sottoscritta. Adesso è stato fatto un passo ulteriore, perché è stato aperto un tavolo di conciliazione con le associazioni dei consumatori. Qualora tutti coloro che avessero già aderito alla conversione proposta dalle Poste non fossero comunque soddisfatti dell'azione risarcitoria, chiamiamola così, però insomma stiamo cercando di capire stamattina se questo tavolo di conciliazione apre la strada anche a qualcos'altro, perché poi il tema che vorrei affrontare anche questa mattina è il tema del prodotto di investimento sottoscritto alle Poste. Qual è il livello della consulenza che viene fatto presso questa sede, e poi come funzionerà anche questo tavolo di conciliazione un po' più nel dettaglio. Con noi per le Poste italiane questa mattina abbiamo Claudio Raimondi e Fabrizio Premuti di Adiconsum. Allora, il numero verde ve l'ho ricordato, allora sentiamo il numero verde. Aldo da Padova, che saluto. Aldo. Buongiorno. Buongiorno. Sono in linea, sì, in diretta. Signora, sì. Dovuti ringraziamenti per questa pubblica utilità in cui ci mette in condizione di poter parlare. Grazie, grazie. Grazie, la seguo spesso. In prima persona, finalmente dopo un anno e mezzo di problemi con un signore delle Poste Italiane. Ah. Io il massimo rispetto. Il massimo rispetto per questo signore che è qui oggi, però devo dire una cosa, questo per me credente è l'unico, perché ci si deve rivolgere alla fede qua alla fine, voglio dire, altro la radio stamattina io volevo rivolgermi alla magistratura, per quale problema? Ci dica che cosa è successo, che magari Claudio Raimondi ci dà la via giusta per poterla aiutare. Per evitare di andare a intrigarmi in maglie ancora più nodose. Allora le spiego, mi sto fermando con l'auto perché stavo cercando. Ecco, bravo, si fermi, allora, per carità. Allora le spiego, gentile signore, veramente la ringrazio per... Aldo, vada al concreto perché sennò la chiudo, Ha ragione. Cosa le è successo? Ma lei si immagina poter avere uno delle Poste dopo un anno e mezzo? Mi dica che cosa le è successo, Aldo, se no la saluto. Mi succede che mi fanno delle mi guardano per tanto tempo i consulenti, i soldi sul mio conto corrente, io mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo, sì. Mi fanno fare dei pacchetti, tra cui polizze vita, raddoppio premio, imposta futuro, io vado a controllare i soldi, io non ho chiesto assolutamente niente, firmo delle carte da buon ignorante, perché mi baso sulla fiducia dei consulenti che mi vogliono bene, che mi rispettano e che mi conoscono in città, perché stiamo parlando non di estranei, di gente che mi conosce. Alla fine vado a ritirare i soldini, vado a prendere i soldini, che io lavoro al nord da 10 anni, li ritrovo dimezzati, ma soprattutto io dico va bene, sono stato ignorante, pago, mi sono fidato. Zero consulenza, arroganza da parte dei direttori, e sono irraggiungibili i dirigenti con i quali poter parlare e dire, perché io dico delle cose pesanti, quel consulente, nome e cognome, quel consulente, mi hanno solo telefonato per darmi il buffetto sulla spalla, e per trattarmi con arroganza. Io ho perso i soldi dopo 10 anni che vivo al nord. Allora Aldo, no, mi aspetti un attimo però, perché qua bisogna adesso, no, non facciamo del qualunquismo e ricostruiamo un po' con un po' di chiarezza la sua situazione. Quindi lei dice, insomma, io avevo un bel gruzzolo sul mio conto corrente, ad un certo punto qualcuno le avrà detto: guarda, perché non li cerchi di farli fruttare in maniera diversa sul conto corrente, sul conto banco posta, e magari sottoscrivi un prodotto di investimento come questo. Io sono assolutamente incredula rispetto a quello che lei mi sta raccontando, che mi dice che addirittura, insomma, è partito un investimento senza che lei ne fosse pienamente consapevole o assolutamente consapevole. Aldo, una firma da qualche parte lei l'avrà messa, un documento qualcuno gliel'avrà proposto. Aldo, siccome mi sono dovuto spiegare velocemente, magari siamo qui per parlarne, allora, per rettificare. Allora, cos'è successo? Dopo un anno che mi subissavano continuamente, lei non perderà niente, lei li deve investire perché non li può lasciare sul conto corrente. Ma guardi che io devo vivere, guardi che se ho bisogno domani li devo riprendere. Questo consulente che ho nome e cognome me li fa investire. Quando io vado dopo un anno non trovo più i miei soldini e vado dal direttore, perché io non sono andato a polemizzare col consulente. Ma era una polizza, che tipo di investimento era? Era una polizza. Dunque, Poste Vite le ho tirate via subito appena ho visto come mi trattavano, mi sono salvato in tempo. Poi era una polizza Posta Futura, era doppio premium. Il signore delle poste sa di che cosa sto parlando, che erano indicizzati col Dow Jones, che mi viene... Poi non ho... Ah, una cosa importante, non mi è mai arrivata una carta dove mi veniva detto entro questo tempo puoi ritirare i soldi, scaduto il tempo te ne puoi andare. Quando vado da questo famoso dirigente e mi ha detto, ma era incredulo che non mi fosse mai arrivata una lettera di trasparenza. Infatti Aldo, siamo increduli pure noi. Allora, a parte il fatto che lei è molto emozionato, molto concitato, ovviamente ricostruire un po' nel dettaglio, bisognerebbe vedere esattamente che cosa ha sottoscritto, però guardando un attimo, prima di sentire Raimondi volevo sentire Premuti, e allora ovviamente nelle condizioni di oggettiva difficoltà rispetto ad un consulente finanziario qualunque, ognuno di noi ci si trova, perché nessuno ha la dialettica tale da poter affrontare, appunto, come dire, una discussione costruttiva su un prodotto di investimento di qualunque genere. Mediamente ci fidiamo del consulente Premuti perché è così, insomma, facciamo tutti dei lavori diversi, per cui non tutti quanti, anche se dovremmo migliorare la nostra educazione finanziaria, abbiamo detto milioni di volte, però non tutti siamo in grado di poter interloquire con il nostro consulente in maniera giusta. Detto questo, allora Aldo, del tutto insoddisfatto, ma qui più che altro mi pare di capire del rapporto umano con la persona con cui doveva interagire. Che cosa ci suggerisce tutto questo? È un tipico caso da conciliazione? Allora, potrebbe anche essere un caso di conciliazione, però io ritengo che andrebbe prima verificato l'effettivo stato degli investimenti fatti dal consumatore. Aldo ci parlava di prodotti che sicuramente non sono tra quelli di cui stavamo parlando noi adesso. Il problema è adesso andare a verificare investimento per investimento su quali linee di prodotto lui si è rivolto. Poi è evidente che lì c'è un obbligo di consapevolezza, di trasparenza, che è in capo a chi propone, quindi a Poste Vita in questo caso, o agli altri istituti che abbiano proposto al consumatore l'investimento. Ed è chiaro che laddove fosse dimostrato che tutto questo non è stato rispettato, l'operatore sicuramente rischia, e Raimondi sa benissimo che rischia. Allora il discorso è fare un attimo il punto della situazione per quanto riguarda quella che è la situazione attuale di Aldo rispetto agli investimenti che ha fatto, verificare se tra questi ce ne sono alcuni di programma dinamico che possono essere ricompresi. Perché la conciliazione a questo punto si limita solo a questi, Premuti, mi faccia capire. Cioè, io non dico che in futuro si dovranno verificare altri casi simili a questo, ma cioè la conciliazione, tutto questo tavolo che impegna 17 associazioni dei consumatori e Poste Vita, si limita a solo a questo pacchetto di polizze? Allora, la conciliazione per il momento è stata fatta espressamente per questi tipi di polizze. La conciliazione però lascia aperto lo spazio ad essere integrata anche dagli altri tipi di polizze nel momento in cui pian piano noi verificheremo l'andamento della prima parte. L'ho detto prima, è un programma, quello della conciliazione sui prodotti vita, molto molto impegnativo, che richiede, e l'abbiamo visto anche adesso grazie ad Aldo, una conoscenza di base dei prodotti finanziari che è estremamente alta e non certo abbordabile per tutti. Quindi noi potremo andare avanti anche pian piano che ne acquisiremo l'esperienza e le conoscenze idonee per poterle poi trattare, perché qui non nasce purtroppo imparato nessuno. No, infatti. E anche le associazioni di consumatori è bene che partano laddove sono sicuramente consapevoli di poter partire e di essere poi protagonisti in quella che è la il confronto con l'azienda, che sicuramente è preparatissima sul suo prodotto. E infatti, Claudio Raimondi, poi magari faremo anche così un piccolo punto della situazione su tutti i prodotti a contenuto finanziario che Poste Italiane continuano a distribuire. Detto questo, il caso di Aldo da Padova, lui è stato proprio particolarmente seccato dal fatto che, dice, guardavano controllavano, come fanno tutti i direttori di banca peraltro, qual era l'ammontare di mio deposito sul conto Banco Posta, per cui vedendo che potevo essere un cliente molto interessante per altri tipi di investimento, ovviamente mi hanno sollecitato, lui non ha utilizzato questo termine, per oltre un anno e mezzo, insomma subissato di telefonate, e insomma abbiamo di fronte una persona che ha sottoscritto un prodotto di investimento in maniera del tutto, da quello che abbiamo appurato dalla telefonata, inconsapevole. Ma lei una chiacchierata con questo direttore di banca, con questo direttore vostro, ce la farebbe? Assolutamente per ricostruire cosa è successo. Devo dire che noi abbiamo dei numeri verdi, degli indirizzi postali al fine di segnalazioni di eventuali disservizi. L'Italia è lunga e stretta, non escludo che in 16.000 punti, 16.000 potenziali collocatori di prodotti assicurativi possa essere accaduto qualcosa di che assomiglia a quello che ha raccontato al signor Aldo, che peraltro però cita un prodotto che è Posta Futuro, che è un prodotto assolutamente garantito, liquidabile a vista, perché tra l'altro il capitale là può soltanto crescere, quindi è soltanto una diversificazione di conto, né più e né meno di quello di un conto corrente, è un conto corrente assicurativo, quindi non mi è sembrato una consulenza così mal fatta. E poi cita anche un prodotto che è raddoppio e che è, di fatto è uno di questi che è nel novero della conciliazione, però evidentemente lui sta raccontando una cosa che accadeva non recentemente, è accaduta 9 anni fa, 8 anni fa. Comunque è sempre una cosa che può essere, se è vero quel prodotto raddoppio, se ricordava bene quel nome, questo è uno dei temi che può essere trattato. Quindi allora facciamo una cosa, siccome Aldo era molto molto nervoso, io lo invito, se ha tempo, con un po' più di calma a scriverci nel dettaglio i termini della questione, i nomi dei prodotti, per capire se A lo possiamo indirizzare verso la conciliazione attivata di recente, per capire se davvero Posta Futuro, che dovrebbe avere invece un rendimento garantito, addirittura lui dice io l'ho liquidato recentemente, se non ho capito male se era questo quello liquidato, perché stava continuando a perdere, per cui Aldo ci dia qualche dettaglio in più con un po' più di tranquillità, perché siamo qui per parlare con tranquillità di questi argomenti. Allora, molti di voi ci stanno telefonando all'800 24 00 24 per chiederci di PostePay, di Banco Posta. Stiamo parlando di altro questa mattina, stiamo parlando di prodotti di investimento venduti, distribuiti presso la rete commerciale delle Poste Italiane, di quelli che hanno provocato qualche problema, qualche risparmiatore qualche mese fa, 70.000 almeno, alla nuova strada che si apre qualora la proposta di conversione di questi prodotti per risarcire gli investitori non fosse ritenuta soddisfacente, un tavolo di conciliazione che è stato aperto con la collaborazione di 17 associazioni dei consumatori, un accordo firmato la settimana scorsa, e questo discorso che stiamo facendo stamattina sta invece sollecitando molti ascoltatori a raccontarci come avviene la sottoscrizione di questi prodotti presso l'ufficio postale. Insomma, le Poste sono nate per fare altro, poi negli anni hanno diversificato la loro attività, forti anche della loro rete capillarissima di uffici ovviamente presente sul territorio, ma insomma è stata un'estensione di attività che ha avuto anche qualche problema, ne abbiamo parlato anche altre volte, ha dato tante opportunità, ma qualche lacuna è poi venuta allo scoperto. Allora, Claudio Raimondi di Poste Vita, le leggo anche una mail che ci è arrivata poco fa da un ascoltatore che dice: scusate la fretta nello scrivervi, ma mi sto seguendo in diretta. In relazione all'attività di trasformazione delle polizze vita delle quali state parlando, come intendete risolvere, si rivolge a voi, le problematiche di coloro che erano beneficiari in caso morte dei contratti andati in default? Possono essi aderire alla trasformazione del contratto del quale sono beneficiari? Lei l'ha capita la domanda, dottor Raimondi? Sì, ho capito. Ma la risposta è certamente sì. Noi abbiamo dato anche la possibilità agli eredi di tenere in vita i contratti. Diciamo che sostanzialmente in caso di decesso, oltre al valore economico maturato a quel momento, cioè il valore di mercato, tanto per capirci del titolo, viene data un'integrazione di copertura assicurativa fino a un massimo di ulteriori 5.000 euro. Quindi sostanzialmente fino a 10.000 euro di premi versati con una polizza che vale il 50%, in caso di decesso agli eredi viene restituito l'intero premio praticamente, anche per capirci. Qualora però ci fossero situazioni in cui il premio versato era molto più alto e quindi queste integrazioni non siano sufficienti, noi abbiamo dato, ed è oggi operativa una procedura presso gli uffici postali, la possibilità agli eredi di reinvestire questi soldi liquidati per decesso e dare loro l'opportunità di prendere il 105% alla scadenza, quindi non abbiamo fatto perdere assolutamente nulla a nessuno. Nel caso specifico volevo aggiungere una cosa, parlando di prima, innanzitutto non c'è nessuna data di scadenza, noi si è parlato tanto sempre del 15 marzo, siamo stati accusati. Sì, diciamo la prima conversione. Sì, ma la prima conversione, di fatto alcune situazioni ancora continuano. Oggi quando parliamo del 93% circa, non è perché il 7% è rifiutato. Siete in trattativa? Il 93% sono 0, qualche cosa, sono poco meno di 700 casi su 70.000. Gli altri li stiamo ancora cercando sostanzialmente, perché poi stiamo parlando di prodotti nati 8 anni fa. In che senso li state cercando? Perché non trovate i destinatari del... Nel senso che sono persone che magari sono anche trasferite oppure hanno segnalato la loro presenza fuori Italia e che ci hanno dato appuntamento a quando rientrano. E non abbiamo detto attenzione che qui scade qualche cosa, anche perché vorrei precisare ancora che noi siamo intervenuti non per rifondare un danno avvenuto, ma per eventualmente proporre ai clienti di evitarlo il danno, perché in questi prodotti nessuno è andato in default. Se il prodotto non defaulta alla scadenza... No, infatti, sono prodotti che banalmente per la crisi di mercato hanno perso completamente il loro valore. Sono prodotti rischiosi, certamente, nati nel 2001 con le logiche e le regole dell'epoca, e che oggi Poste Italiane sta dando l'opportunità ai clienti di switchare su un prodotto assolutamente garantito. Facendo anche, Raimondi, mi permetto, un'azione di autocritica rispetto al tipo di attività consulenziale che viene data presso le filiali delle Poste Italiane, non perché la vostra sia, come dire, inferiore rispetto a quella che viene data presso altri canali che dovrebbero essere invece molto più preparati, che qualche volta sono estremamente lacunosi anche in altri casi, insomma. Ma cosa insegna tutta questa vicenda Poste Italiane? I prodotti di investimento dovranno andare tutti quanti verso la strada della semplificazione, lo abbiamo appreso con questa crisi. C'è anche un ripensamento sulle modalità con cui Poste Italiane eroga la consulenza finanziaria? Un attimo, lei mi ha detto ha posto due o tre questioni importanti. Sì, da risolvere in due minuti peraltro. Sì, uno è il ripensamento. In realtà non c'è, tra virgolette, nessun ripensamento. Poste Vita è l'unica compagnia del mercato, diciamo distribuzione di tipo bancario, anche se non siamo banca ovviamente, che aveva fino allo scorso anno il 75%, l'80% della propria raccolta fatta con prodotti assicurativi, punto. Nel senso che l'assicurazione assicura, e quello che viene venduto a Poste Vita dal 2004 in poi sono soltanto prodotti assicurativi. Per quest'anno addirittura la percentuale è zero. Quindi non c'è un ripensamento, c'è un continuare su una logica in cui l'assicurazione fa l'assicurazione. Però insomma questa vicenda è una lezione. Quello dei prodotti finanziari è un prodotto, è un problema di tante compagnie italiane. E la tra virgolette può essere uno dei casi che ha creato. Voi però avete la forza della rete di vendita. Abbiamo anche i processi, guardi, vi assicuro che non esiste nessun prodotto che può essere venduto senza che oggi questo prodotto non passi al vaglio tutto quello che sono i processi, i vincoli, i limiti dettati dalle normative. Cioè neanche un dolo, con dolo si riuscirebbe ad emettere un prodotto senza aver fatto adeguatezza, senza aver fornito le informazioni sul benissimo distributore. Senta, la volevo chiudere brutalmente, so che ha tante altre cose da dire perché c'è un ascoltatore, ma voglio far concludere anche Fabrizio Permuti. Ferdinando, ci riesce a raccontare in 30 secondi la sua vicenda? Ferdinando è caduto. In sostanza diceva che si stupiva del fatto che io avessi detto di essere incredula rispetto al caso di Aldo da Padova, perché lui dice a suo fratello è successa la stessa cosa con una polizza vita sottoscritta alle Poste. In realtà era un investimento, quindi non aveva ben capito la natura del prodotto sottoscritto e quindi ha perso il suo denaro. Fabrizio Permuti, le posso assegnare una conclusione in via conclusiva, appunto, ovviamente di Salvadanaio, naturalmente essendo la conclusione, rispetto a quello che abbiamo accaduto, che abbiamo sentito fino a questo momento. Un prodotto di investimento, Poste Vita, un prodotto vita, ci impegna per tanti anni e in genere pensiamo di sottoscrivere un prodotto sicuro che ci protegga il nostro investimento. Abbiamo capito con questa crisi che non sempre è così. Per quello che riguarda l'investimento fatto alle Poste, l'ultimo suggerimento dell'Associazione dei Consumatori. Ma molto semplicemente, l'ha detto adesso Raimondi, sono prodotti assicurativi al 50%, io direi, non al 100% come dice lui, che contengono comunque strumenti finanziari, quindi ci vuole una consapevolezza particolare da parte del cliente che li acquista. Questo dovrebbe essere uno stimolo in più non solo a Poste Vita, ma all'intero comparto anche bancario, e forse questo è un dato che va ricordato, Poste e banche distribuiscono l'85% di questi prodotti. Gli agenti di assicurazione, che dovrebbero essere quelli forse più preparati, più sul pezzo, ne distribuiscono appena il 15%. Andiamo bene. Ci sarà un motivo per questo. Allora, bisogna dedicare molto più spazio, molto più tempo alla formazione di chi è allo sportello, di chi ha l'incarico di dover spiegare a chi approccia questo prodotto il contenuto del prodotto e come funziona il prodotto, qual è l'indice di rischio insito nel prodotto, perché tutti questi prodotti hanno un indice di rischio, se non fosse altro quello del non poter più pagare e quindi dover fare un riscatto anticipato. È un rischio anche quello, perché significa perdere dei soldi. E insomma, vorremmo più consapevolezza, più responsabilità e magari un po' meno conciliazione in futuro. Chissà se ci riusciremo ad andare su questa strada. Grazie molto a Claudio Raimondi di Poste Vita, Fabrizio Premuti di Adiconsum, e grazie a Peter Bescapena, assistenza tecnica, Gaia Romani e Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione. Noi torniamo domani, buona giornata.